L'Unione Sindacale di Base chiama la festa dei lavoratori e delle lavoratrici domani in Piazza dell'Unità con titolo Ambiente, Lavoro, Diritto al Futuro. Sarà una giornata che mette al centro gli interessi dei lavoratori, non delle classi padronali. Sarà la festa dei lavoratori, ma anche una giornata di lotta e di solidarietà. Il programma è questo: inizia la mattina alle ore 11, ci sarà il dibattito con titolo Ambiente, Lavoro e Diritto al Futuro, prospettive di sviluppo tra lavoro pubblico per le infrastrutture e la tutela dei territori e la lotta contro le grandi opere inutili fuori dalla gabbia dell'Unione Europea. Seguirà un pranzo popolare di socialità, per tutto il pomeriggio giochi, banchetti e musica, poi per tutto il pomeriggio ci saranno diversi gruppi che suoneranno fino alla sera verso mezzanotte. Dibattito è incentrato sulle connessioni tra lo sfruttamento del lavoro e lo sfruttamento ambientale, quindi l'inquinamento e il dissesto del territorio e la speculazione urbana. Saranno con noi diverse realtà e associazioni che si muovono sul territorio locale. Ci saranno con noi diversi protagonisti che si muovono nei quartieri. E parlando ancora un po' appunto proprio di questo incontro, tra l'altro, visto che tu fai parte di USB, in particolare di Asia USB, esatto. Ho visto che voi avete preso ad esempio il tema della ristrutturazione del programma Mille Case per Bologna, di cui avete dato una lettura critica. Quindi ti chiederei se si parlerà anche di questo e molto brevemente in che cosa consiste questa lettura, diciamo. Allora, parleremo sicuramente anche della speculazione urbana, quindi anche del piano Mille Case, ne parleremo nello specifico, in particolar modo con i compagni dell'XM24, che, come è uscito fuori anche oggi sui quotidiani, sono attualmente sotto sgombero, perché a nostro avviso sia il piano Mille Case che in generale tutte le politiche messe in campo negli ultimi anni da parte dell'amministrazione per quanto riguarda il diritto alla casa sono sempre di base speculazione privata o comunque interessi privati verso l'interesse invece della collettività. Da un lato la nostra amministrazione non fa altro che vendere le case popolari, tagliare i finanziamenti per l'edilizia pubblica, trasformando quindi tutto ciò che è pubblico, tutto ciò che in realtà dovrebbe essere nel possesso dei lavoratori, dei cittadini di questa città, in profitto privato tramite il social housing, tramite terreni che vengono messi a disposizione di imprenditori privati tramite bandi pubblici, e allo stesso tempo c'è il rischio che venga sgomberata una realtà che mette in campo tante iniziative utili per il quartiere e gli abitanti del quartiere della Bolognina per fare spazio per il cosiddetto social housing, che comunque non è edilizia pubblica ma è sempre edilizia che viene costruita tramite interessi dei privati. Quindi parleremo anche di questo, parleremo dei cambiamenti che avvengono sul nostro territorio, parleremo dei cambiamenti che ci sono nei quartieri, che sono in atto nei quartieri, parleremo del progetto che sta mettendo in campo il comune di espellere le fasce popolari, le fasce meno abbienti dal centro dei quartieri periferici, parleremo ovviamente anche della cosiddetta gentrificazione, quindi di tutte queste opere inutili che vengono costruite, che vengono spesso costruite con i soldi pubblici. Pensiamo alla mai conclusa trilogia navile che si trova proprio dietro all'XM24, pensiamo allo student hotel che viene costruito, che ormai si stanno concludendo i lavori proprio dove ci stava una delle più grandi occupazioni abitative che sono state a Bologna negli ultimi anni. Parleremo di tutto questo collegandoci anche alla questione ambientale, quindi alle trasformazioni che sono in atto sul nostro territorio da un punto di vista ambientale, parlando del passante, parlando del progetto del tram, parlando della nuova autostrada che è in programma di costruzione. Cercheremo di fare dei collegamenti tra tutte queste cose, mettendo sempre al centro la vita dei cittadini, la qualità della vita dei cittadini e la questione lavorativa, perché tutto questo avviene sempre solo esclusivamente sulla pelle dei lavoratori, quindi sfruttando la manodopera per l'interesse privato. Perfetto, sì, effettivamente anche il quartiere, diciamo, che avete scelto è sicuramente un quartiere che ha molto a che fare con i temi che tratterete. A questo punto ti chiederei se ci puoi dire anche qualcos'altro, diciamo, delle realtà che interverranno. Finora hai nominato XM, ma immagino che ci saranno anche altre realtà a prendere parte all'iniziativa. Allora, ci saranno molte realtà diverse a prendere parte all'iniziativa. Sicuramente i compagni dell'XM24 già nominati, ci saranno i compagni di Concibò, un'altra realtà che si muove nello specifico nel quartiere della Bolognina, ci saranno i compagni del Comitato Non Regenerazione Non Speculazione, ci saranno i compagni del NOTAP, ci sarà anche un intervento a distanza da parte di Nicoletta Dosio come rappresentante dei NOTAV, ci sarà la realtà di Ventipietre, la nuova cordata che si è creata qualche mese fa in Bolognina, bancarotta, per il bando degli spazi. Saranno quindi diverse realtà che partecipano, tutte realtà che si muovono sul territorio e con cui abbiamo dei punti d'incontro e delle affinità nelle nostre analisi e letture. Perfetto, io ti ringrazio, ti chiederei solo se puoi ricordarci gli orari degli appuntamenti e anche poi, visto che ci sarà anche un palco serale, poi con la musica, anche qualcosa rispetto a questo. Certo, allora la giornata inizierà alle ore 11 con il dibattito, verso le ore 13 sarà il pranzo popolare, seguiranno per tutto il pomeriggio giochi, banchetti, tavoli tematici e musica, suonerà dalle ore 18 Bantu Beat, dalle ore 20 circa Guglielmo Pagnozzi e The Prolet Funk e poi dalle ore 22 in chiusura DJ Luci, che ci accompagnerà fino alla chiusura della giornata.